Allora, siamo al telefono con un compagno dell'ottava zona per presentare questa due giorni, oggi e domani. Ti lascio la parola direttamente. Sì, buongiorno a tutti e tutte. Allora, proviamo a farla breve per non rubare molto tempo alle altre comunicazioni e alle altre informazioni della giornata. E prima di tutto due paroline su chi organizza questa due giorni. La organizziamo un blog che è nato recentemente, circa un mese e mezzo, due mesi fa, che si chiama Prometeo. Abbiamo anche avuto modo di raccontarci un po' a Radio Onda Rossa. È un blog composto da alcuni compagni singoli, individui che desideravano avere uno spazio comunicativo e di confronto e di dibattito sul web, ma anche da collettivi come Promacos e come collettivo auto-organizzato di scienze politiche. Oltre a noi c'è anche un progetto che è nato quest'anno ed è specifico per il 77, perché si chiama appunto Giorni che valgono anni, Movimento del 77, che ha già organizzato un'altra iniziativa molto importante nel febbraio scorso, nell'occasione dei 40 anni della cacciata di Lama. Questa iniziativa fu a Lecce. Niente, ci siamo messi insieme a confrontarci, a discutere, e la volontà era quella di organizzare una due giorni che andasse un po' a riprendere la memoria, in parte sì, del 77 e degli anni delle lotte dell'autonomia operaia, soprattutto romana, ma che fosse anche un modo per riportarla all'oggi, quindi non solo memoria, ma di provare a ragionare anche sull'attualità e su quanto ci sia ancora oggi di vivo e di possibile rispetto a quello che l'autonomia metteva in campo nella fine degli anni 70, confrontando con la situazione attuale. La due giorni comincia oggi, verso le 18.30, con la presentazione di La Teppa all'assalto del cielo, che è una riedizione fondamentalmente di un testo scritto appunto alla fine degli anni 70, e non voglio spoilerare però di che cosa va a parlare realmente questo testo, però diciamo, mettiamola così, è un testo che cerca di mettere a confronto la Comune di Parigi, il Movimento del 77 e nella nuova edizione attuale anche le giornate di lotta del 14 dicembre 2010 e del 15 ottobre 2011, cerca di accomunarle prendendo spunto da, diciamo, il racconto, io direi direttamente mistificazione o altro, che la stampa borghese o comunque di regime ha fatto. Sì, ne abbiamo, scusami se ti interrompo, ne abbiamo proprio parlato adesso. Perfetto, abbiamo... infatti quindi... era proprio così. Ora, prima di fare la presentazione, il Duca farà un reading di alcuni passi da questo libro, poi ci sarà la discussione sul libro e poi faremo una cena sociale di autofinanziamento, quindi dalle 18.30 in poi. Domani invece dalle 18, quindi più o meno stesso orario, proponiamo un dibattito con alcuni compagni dell'autonomia operaia romana su varie tematiche. Parleremo di comunicazione e di Radio Onda Rossa, parleremo delle lotte sul lavoro, delle lotte della sanità, delle lotte anche nei termini di questioni ambientali, anche facendo un focus su quella parte giovanile degli studenti medi dell'epoca, ecco, diciamo fra gli anni dai 77 in poi. E chiaramente poi, a partire da queste tematiche, da un racconto di quelle vicende, proveremo a sviluppare un dibattito che possa riportare anche sull'attualità, diciamo, alcune questioni, alcuni nodi dell'autonomia operaia. Perché abbiamo voluto impostare il dibattito così? E poi, per quello che dicevo prima, perché in parte ci serve, ci siamo resi conto che in questi 40 anni si siano prodotti sì dei documenti, dei materiali su cui andare a leggere, studiare, conoscere l'esperienza dell'autonomia, ma a nostro avviso non ci basta, e quindi nel quarantennale del 77 volevamo provare a dare un nostro contributo in questi termini. Sull'attualità, e per quello che dicevo, la storia non, a noi non piace fare storia per la storia, nel senso che ci piace raccontare, conoscere, studiare gli avvenimenti anche per provare a capire noi se ci sono stati gli errori, come non rifarli, quali fossero le ricchezze e le capacità che si potevano mettere in campo, ecco, per cercare di, diciamo, migliorare anche noi quest'oggi. Sulle date, sul perché abbiamo scelto queste date, diciamo soprattutto sulla presentazione di oggi, anche se non è proprio il giorno esatto, però volevamo farla coincidere con la fine della Comune di Parigi, un po' in maniera simbolica, però la presentazione per varie vicissitudini ci troviamo a farla oggi. Su domani, sul dibattito di domani, dobbiamo scusarci, però purtroppo va a coincidere con l'ultima partita di Totti con la Roma. Noi questo non potevamo saperlo quando l'abbiamo organizzato, tant'è che l'orario è stato anche spostato pochi giorni fa proprio della partita, quindi diciamo la sorte è contro di noi. Però ecco, poi dopo il dibattito domani faremo anche un aperitivo, una cena di autofinanziamento. E questa è la due giorni. Se volete chiedere o specificare qualcosina in più, sono qui. No, mi sembra che hai detto quello che c'era da dire, eppure anche la Lega Calcio è contro di noi e dobbiamo farla, aggiungiamo alla lunga lista dei nemici. Va bene, allora ci vediamo oggi sicuramente con grande piacere. Sì, il tutto è all'ottava zona a Villa Gordiani, a Via Lussi in Piccolo 17, ci si può arrivare con i mezzi tranquillamente col tram il 5, il 14 o il 19 da Porta Maggiore, scendendo alla fermata Levano Romano all'altezza del parco di Villa Gordiani e andando diciamo dal lato delle case popolari. Comunque penso che i mezzi attuali favoriscano il trovare il posto tranquillamente con Google Maps o queste cose qui. Va bene, sei proprio esaustivo, grazie. Appunto diamo anche noi l'appuntamento a oggi, perché domani sono circostanze di dibattito molto interessanti. Grazie ancora. Grazie. Ciao. A voi, buona giornata. Ciao.